Italia in controluce. Incidere su quello che è la massima portata della democrazia di un paese, e cioè quella che il popolo decida liberamente chi devono essere i candidati, è un qualcosa di devastante per il principio stesso della democrazia. Eh sì, vi abbiamo voluto far riascoltare le parole di Ilda Boccassini perché ci sono sembrate particolarmente pesanti le espressioni usate dal procuratore aggiunto di Milano ieri nel giorno dell'arresto dell'assessore lombardo Domenico Zambetti per voto di scambio. Parole pesanti come pietre su cui vogliamo soffermarci nella puntata di oggi di Italia in Controluce, perché insomma, vedendo le paginate sui giornali, sentendo in giro cosa dice la gente, ci chiediamo se stiamo arrivando ad un punto di non ritorno. Tutto questo mentre il presidente della Lombardia Formigoni ha incontrato a Roma il segretario del PDL Alfano e quello della Lega Nord Maroni. Insomma, ci chiediamo, resisterà Formigoni anche questa volta? Riuscirà a restare in piedi nonostante questa nuova inchiesta? Chissà se lo scopriremo in giornata o se sarà un'altra giornata interlocutoria da questo punto di vista, anche se appunto l'impressione al momento è che la poltrona non la molli. Ha dato infatti dello spergiuro a Zambetti, ha detto che è un traditore, insomma non si accolla responsabilità dirette. Ripartiamo proprio da qui, dalla figura di Zambetti, chi è e che cosa avrebbe fatto. Ci racconta tutto Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. Ricordiamo innanzitutto gli elementi più significativi di quest'ultima inchiesta che coinvolge il Pirellone, ipotizza, come dicevi Piera, il reato di voto di scambio, ma anche quello di concorso esterno in associazione mafiosa, oltre a quello di corruzione, reato quest'ultimo per cui procedono la gran parte delle altre inchieste. Lo ricordiamo, tra consiglieri, assessori ed ex assessori, ex presidente, vicepresidenti, i politici regionali coinvolti sono 13. 4.000 i voti messi in vendita dal clan per il seggio in regione, voti pagati 200.000 euro, 50 euro l'uno, dall'assessore Domenico Zambetti. Secondo l'accusa, tra i favori dell'assessore ai clan calabresi di Milano e Interland risulterebbero anche l'assunzione in Aler, l'ente che controlla il patrimonio immobiliare regionale, della figlia di un boss, la concessione di una casa popolare all'amante di un boss e la promessa di una corsia preferenziale per le aziende legate ai clan negli appalti pubblici per l'Expo. Nelle oltre 500 pagine dell'ordinanza si parla di un vero e proprio patto politico mafioso. Hai visto quel pisciaturo di Zambetti, come ha pagato, si legge in una delle intercettazioni agli atti. A parlare il boss Eugenio Costantino, lo facevamo saltare in aria, piangeva per la miseria. Così dunque un'intercettazione, una di quelle pubblicate oggi su tutti i giornali, ma il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, ieri ha usato parole forti anche nei confronti degli imprenditori. Sentiamole. Parlare in generale, mi consenta, di infiltrazioni così può essere sbagliato, perché in alcuni casi, ovviamente io parlo dell'indagine, abbiamo l'imprenditore che si porta verso, nella consapevolezza, verso il mafioso, e quindi in questo caso, se l'italiano ha un senso, non è infiltrazione, no? Gli imprenditori si rivolgono alla criminalità anziché allo Stato, l'accusa dunque di Ilda Boccassini. Allora abbiamo chiesto una replica al presidente di Assolombarda, Alberto Meomartini. È da un po' di tempo che dottoressa Boccassini segnala questo problema. Io non sono tra quelli che si sente, come dire, offeso da questa affermazione, perché il tema è vero, esiste, ne va preso coscienza, cioè non ci sono sufficienti anticorpi anche nella classe degli imprenditori, il che non vuol dire ovviamente che la categoria imprenditori è, come dire, tutta coinvolta in questa attività come minimo omissiva che richiama dottoressa Boccassini. Ma è altrettanto vero che senza una difesa rigida, senza barriere di comunità, senza, come dire, un terreno comune di valori, la lotta alla criminalità organizzata non può essere lasciata né alla polizia né alla magistratura. Ciascuno di noi deve fare qualcosa, non può pensare che tocchi solo agli altri. Nessuno degli imprenditori vittime di intimidazioni, di ricatti, eccetera, ha detto Ilda Boccassini, ha denunciato. Perché? C'è paura? Assolombarda è stata la prima associazione di imprenditori del nord a modificare il proprio statuto e a fare della lotta alla criminalità organizzata, come dire, un sine qua non per essere associati ad Asso Lombarda. Noi non abbiamo avuto in Asso Lombarda casi ancora di atteggiamenti omissivi. Gli atteggiamenti omissivi in tema di criminalità organizzata sono molto gravi, perché sono la strada più nascosta attraverso cui penetra la criminalità organizzata. E quindi il fatto che alcuni imprenditori, fortunatamente non tutti, non abbiano neppure denunciato, dimostra più che una paura, una convenienza, e questo è ancora peggio, perché con la paura, insomma, tutti possiamo fare i conti e poi sappiamo che c'è qualcuno che ci protegge anche dalla paura. Ecco, ma con la convenienza è inaccettabile dover fare i conti, perché tutti quelli che pensano che sia una scorciatoia non denunciare pressioni, abusi, intimidazioni, sanno che stanno uccidendo non solo la loro impresa, ma anche dei pezzi di democrazia. È l'inizio della fine, dunque, come successe nel 92, siamo di fronte al tracollo di una classe politica, è una nuova Tangentopoli. E perché questa volta, a differenza di 20 anni fa, la società civile ancora se ne sta ferma a guardare? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto a Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia. È assolutamente vero, si ha l'impressione che la società civile abbia perso la sua capacità di reazione, e in fondo il motivo si può anche intuire. In fondo la società civile ha imparato il fallimento, ha preso il fallimento della sua reazione della fase di Tangentopoli, e quindi ha motivi, diciamo, di frustrazione, di stanchezza, non crede più a niente. Questo secondo me è il punto pericolosissimo. Ecco, questa è la ragione per la quale io sono convinto che non c'è niente di più corruttore e dannoso al paese dell'atteggiamento del dire ma questi sono tutti ladri, sono tutti lazzaroni, che poi è quello che appunto si riattribuisce all'antipolitica. Ma oggi non ci può illudersi che con le dimissioni di Formigoni la regione Lombardia diventi virginale. Ma Formigoni deve dimettersi? Beh, io a questo punto ho l'impressione che sì. E c'è chi di infiltrazioni mafiose al nord parla da anni, è naturalmente Roberto Saviano, l'ha intervistato poco fa Dario Ceccarelli. Allora, Roberto Saviano, arrestato in Lombardia un assessore per aver dato 200.000 euro a un clan in cambio di voti, tu sei stato un facile profeta e forse poco ascoltato. Ma in queste ore fa anche male ricordarsi tutto il fango, gli attacchi, migliaia di firme prese contro di me che davo del mafioso al nord, così fui accusato per averne parlato in TV. Senti, la Lega adesso grida allo scandalo, dice che con la mafia non vogliamo avere a che fare, lancia ultimatum. Proprio Maroni con te ebbe parole molto dure dicendo che le tue erano infamie. Come rispondi? La Lega continua a mentire, ad avere un atteggiamento ambiguo. Sono i militanti della Lega che tra l'altro dovrebbero pretendere dai dirigenti un atteggiamento diverso e maggiore chiarezza. Da un lato Salvini dichiara che appunto la Lombardia è la regione che ha lavorato meglio, la più virtuosa d'Italia, si dimentica le decine e decine e decine di inchieste che riguardano la criminalità organizzata nell'economia lombarda, e soprattutto si dimentica di citare il tesoriere Belsito che con l'Andrangheta aveva fatto un affare, insomma, che riguardava capitali, quindi sicuramente non vicinanza amicale o politica semplicemente. La Lega dovrebbe stare anche attenta a queste dichiarazioni che fa di estraneità, perché prima della vicenda Belsito soltanto la parola interloquire spaventava i leghisti, no? E indignava anzi. Io credo che questa inchiesta fatta dalla Procura di Milano sia soltanto l'inizio. Senti, a Milano ci sarà l'Expo nel 2015, che peso avranno tutte queste vicende? Temo un peso enorme, perché la crisi aumenta il potere economico delle organizzazioni, hanno liquidità, vincono appalti spesso legalmente proponendo dei prezzi ottimi, risolvono lavori in tempi brevi, spesso hanno pale meccaniche, parlano dell'edilizia in questo senso, o comunque i lavori che vincono li risolvono bene, non è che rubano o comunque fanno male il lavoro. Temo che l'Expo debba costruire intorno a sé una protezione in grado di mantenere alta la vigilanza sull'infiltrazione di questi capitali, ma credo che questo governo dovrebbe introdurre delle nuove forme. Tra l'altro l'Italia è, bisogna dirlo, all'avanguardia come paese riguardo il contrasto alle mafie, può non sembrarlo da queste notizie, in realtà è così. Ultimissima cosa, questo governo forse è stato un po' distratto da altre vicende e ha un po' trascurato queste, o no? Temo di sì, temo che le priorità siano state altre, mi rendo conto, ma temo che sia venuto il momento, si sia quasi, ci sia anche una sensazione di ritardo purtroppo, perché gli immensi capitali delle organizzazioni criminali sono ovunque, falsano il mercato, corrompono le aziende, è il momento di agire. Grazie a Dario Ceccarelli, grazie a Maria Luisa Pezzali, un saluto da Maria Piera Ceci. Italia in controluce torna domani alle 13.30.